Abbiamo chiesto di comportarsi come si comportano e si sono comportate le banche centrali, che hanno affrontato con maggiore successo e stanno affrontando con maggiore successo questa drammatica crisi economica seguita all'emergenza sanitaria, cioè di sterilizzare il debito. Cioè la banca centrale ha acquistato sui mercati secondari, perché non può farlo direttamente dagli stati, i titoli del debito. Questi titoli sono comunque debito che incombe sugli stati. Se ci fosse un meccanismo che in un modo o nell'altro lo sterilizzasse, cioè questi titoli vengono rinnovati all'infinito o addirittura quel debito viene cancellato direttamente, cosa che penso che sia anche complesso dal punto di vista del diritto europeo, ma non il trasformarli in debito perpetuo, ecco, in questo modo ci sarebbe un alleggerimento del debito sui paesi europei, che ricordiamo stanno in questa fase indebitandosi all'inverosimile, il che è inevitabile, ma in una situazione molto particolare, cioè entro breve rientreranno in funzione i cosiddetti parametri di Maastricht, cioè i limiti al debito e al deficit, e i paesi europei si troveranno, in particolare quelli del sud Europa, drammaticamente fuori da questi limiti, e questo significa il suicidio economico, politico e sociale per il futuro. È stato calcolato che più o meno un quarto, il 25% del debito detenuto dalla BCE riguardi direttamente gli stati, sia tra virgolette debito interno, no? È così? Sì, quello che sta facendo la BCE adesso, che è poco rispetto ad una visione dell'ordine economico di tipo keynesiano, attento alle politiche espansive e così via, ma è tantissimo rispetto a tutto il resto che è stato fatto, perché l'Europa di fatto non ha fatto sostanzialmente nulla, nonostante tutta la retorica sul recovery fund, sul MES sanitario, tutti strumenti che non fanno altro che incrementare il debito dei paesi e soprattutto non fanno altro che incastrarli dentro un meccanismo per cui si ricevono soldi in prestito, eventualmente anche sovvenzioni, ma in cambio di comportamenti che hanno a che vedere con riforme strutturali, con indirizzo della politica economica che non cambia rotta rispetto al passato. Non si è imparato nulla con la crisi del 2008, non si sta imparando nulla con la crisi attuale, anche se, ripeto, ci sono molte retoriche, narrazioni, per usare un'espressione che a me non piace molto ma che va molto di moda, che dicono il contrario, ma ne possiamo parlare a lungo, ma in realtà il problema resta, non si sta cambiando rotta. La spirale in sostanza sarebbe quella che abbiamo già conosciuto, insomma, ad ogni crisi economica, con l'arrivo di aiuti, poi appunto la richiesta di riforme strutturali, eccetera. Esattamente, e poi ripeto, questi aiuti sono o prestiti, e quindi vanno restituiti, o sovvenzioni, ma attenzione, le sovvenzioni sono fatte di soldi che l'Europa ha chiesto in prestito ai mercati, non ha detto alla banca centrale come hanno fatto invece i paesi più attenti a questi profili, l'Inghilterra, il Giappone, gli Stati Uniti, non è stato chiesto di stampare questi soldi, sono stati presi in prestito dai mercati. Questi soldi sono debito dell'Europa, debito comune, l'Europa li dovrà restituire, e visto che il bilancio europeo è fatto sostanzialmente di trasferimento di fondi dai paesi europei al bilancio europeo, appunto, significa anche qui, nonostante sia debito europeo, comunque un debito che finisce addosso ai paesi membri dell'Unione. La presidente della BCE, Christine Lagarde, però già respinto, diciamo, il vostro appello, dicendo che una cancellazione del debito violerebbe i trattati. Lei si occupa anche di diritto, dice il vero Lagarde? Guardi, il diritto è uno strumento politico, anche se i giuristi amano dire che loro maneggiano strumenti tecnici che non lasciano margine a valutazioni discrezionali, questo non è. Cioè nei trattati volendo, ci fosse la volontà politica, si troverebbero dei margini. Dopodiché è vero che la BCE si sta sempre più comportando da banca centrale di un paese sovrano, così come noi lo conosciamo, e quindi sta sforzando molto rispetto al suo mandato. Questo è vero, ma se ci fosse la volontà politica si potrebbero anche cambiare i trattati. Il problema è che questa Europa è costruita in modo tale che riformarla è difficile se non impossibile. Dopodiché è ovvio che Lagarde ha detto di no. Ci sono paesi che controllano le politiche economiche dell'Europa che sono assolutamente contrari a questo meccanismo, i soliti paesi del nord, i SAV, no? Svezia, Austria, Danimarca in particolare, oltre che l'Olanda, e questa cosa non si farà mai. Probabilmente dipende da questo. Se i tedeschi e i francesi avranno problemi in futuro, ed è abbastanza probabile che sia così, allora si sposterà in avanti il momento in cui la banca centrale tornerà a essere severa. Però appunto mi pare un po' pochino per un'unione politica, no? Sperare che anche gli altri stiano male, così la politica resta un po' sospese in una sorta di limbo per cui le regole si piegano un pochettino secondo quello che è detto al buon senso. Per il resto è coerente con la costruzione europea così come è interpretata dai Sado, appunto, la risposta di Lagarde non stupisce minimamente.